Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Dicembre 1970. Caro Michele, ieri sera sei venuto a Valdà e mi hai detto che sei partito per Londra. Sono rimasta sbalordita e stravolta. Osvaldo ha detto che ti sei affacciato un momento da tuo padre per dargli un saluto, ma dormiva. Ti sei affacciato? Cosa vuol dire che ti sei affacciato? Forse tu non ti sei reso conto che tuo padre sta così male. Quel povo, o covo, ha detto che oggi deve entrare in clinica. Ti servivano camicie e roba di lana. Osvaldo dice che pensi di rimanere là per tutto l'inverno. Mi potevi dare un colpo di telefono. Mi chiamavi al posto pubblico in paese, come altre volte hai fatto. Certo, se non mi mettono il telefono qui impazzirò. Io sarei venuta all'aeroporto e ti avrei portato dei vestiti. Osvaldo dice che sei partito con i calzoni di fustagno e la maglia rossa e niente o quasi niente per cambiarti. Tutta la tua biancheria, dice Osvaldo, pulita e sporca, è rimasta nello scantinato. Non si ricordava se avevi il Loden o se non l'avevi. Tutta un tratto si è ricordato che lo avevi. Questo mi ha dato un poco di conforto. Dice che gli sei capitato in casa la mattina presto. Secondo lui l'idea di partire per Londra e frequentare lì una scuola di scultura era un'idea che tu macinavi da un pezzo. Perché da un pezzo ti sei stancato di tutti quei gufi. Questo lo capisco. Ti scrivo a questo indirizzo che mi ha dato Osvaldo, ma lui dice che è provvisorio. Il fatto che Osvaldo conosca un poco questa signora anziana che ti dà la stanza mi rassicura un poco, però pochissimo. Non devi credere che io non abbia capito che la tua è stata una fuga. Idiota io non sono. Ti prego, scrivimi subito e spiegami chiaro da che cosa volevi fuggire o da chi. Osvaldo non è stato chiaro. O non voleva dirmelo, o non lo sapeva. Comunque te ne sei andato. Ho restituito a Osvaldo le 300.000 lire che ti ha imprestato. Cioè, le ho restituite a sua moglie. Ho fatto un assegno intestato a sua moglie. Dice Osvaldo che sua moglie ha sempre soldi liquidi in casa, se no, essendo sabato, tu non partivi. Osvaldo è arrivato da me alle 10 di sera. Era stanco morto per essersi battuto in questura per il tuo passaporto che era scaduto e per averti accompagnato a Fiumicino e per essere poi dovuto andare a recuperare fuori Roma non so che macchina di sua moglie che tu avevi imprestato non so a chi. Non aveva cenato, io non avevo in casa niente, se non varie qualità di formaggi comperati da Matilde al supermarket la mattina. Io ho messo lì tutti questi formaggi e ne ha fatto strage. Matilde l'ha intrattenuto sugli impressionisti francesi. Matilde sventolava il suo ciuffo e fumava col suo bocchino e passeggiava su e giù con le mani nelle tasche del golf. L'avrei ammazzata. Volevo che se ne andasse per interrogare Osvaldo su di te. C'erano anche le gemelle, giocavano a ping pong. Finalmente sono andati tutti a dormire. Gli ho chiesto se tu eri partito per via di quella Mara Castorelli che mi ha scritto e che ha un bambino. Osvaldo mi ha detto che quel bambino non è tuo. Secondo lui, con la partenza, la ragazza non c'entra niente. Dice che è solo una povera e balorda ragazza senza soldi, senza una coperta di lana e senza una sedia. E lui pensa di portarle coperte e sedie dal tuo scantinato, visto che là ora non servono a nessuno. Mi ha chiesto se poteva portarle anche quella stufa verde con i fregi, cioè la stufa tedesca. Ho detto che bisognava smurare il tubo e forse era complicato. Mi ricordavo del giorno che ero andato a comprartela e perciò mi era cara. Tu certo troverai stupido che uno possa amare una stufa. Osvaldo mi ha detto che tu non l'accendevi mai, quella stufa, perché non ti ricordavi mai di ordinare la legna e ne usavi invece una elettrica. Infine gli ho detto che facesse cosa voleva con le sedie e la stufa. Gli ho chiesto se tu per caso non avevi avvicinato gruppuscoli politici pericolosi. Ho sempre una paura tremenda che tu possa finire nei Tupamaros. Lui ha detto che non sapeva con chi ti mescolavi negli ultimi tempi. Ha detto che era anche possibile che tu avessi paura di qualcosa. Non è stato chiaro. Non capisco bene se mi è simpatico. È gentile. È di una tale gentilezza che dà perfino una sensazione di ripienezza, come quando abbiamo mangiato troppa marmellata. Ha quella faccia florida che ride sempre. Ma io non vedo proprio niente da ridere. Guardandolo avevo in qualche momento il dubbio che fosse pederasta. Non ho mai capito bene come mai siete tanto amici. Tu, un ragazzo, lui un uomo di 36 o 38 anni. Mi dirai che il numero delle mie paure per te è illimitato. Non ha nessun cugino ai telefoni, ma gli sembra che Ada su un uomo di mi ha promesso di chiederglielo. Non so come faremmo noi senza questa Ada. Ti ha dato i soldi per partire. Ha fatto una telefonata a uno della questura e se no non so come facevi col passaporto. Dovresti scriverle per ringraziarla. Dice Osvaldo che era già in piedi alle 7 della mattina quando lui ci è andato. Lavava col petrolio i suoi pavimenti di cotto. Ho anch'io qui dei pavimenti di cotto, ma non li abbiamo mai lavati col petrolio. Infatti sono opachi. Credo che Cloti non li lavi con niente. L'altro ieri mattina Matilde è venuta da tuo padre con me. Quando siamo arrivate lui era seduto sul letto, fumava e telefonava. Così lei sul momento non ha avuto l'impressione che stesse tanto male. Lui parlava al telefono con quell'architetto. Non so se tu sai che tuo padre, una settimana prima di ammalarsi, ha comprato una torre all'isola del Giglio. L'ha pagata solo 1 milione, o almeno così dice. A quanto ho capito è una torre che crolla e che deve essere piena di urtiche e di vipere. Tuo padre si è cacciato in testa di farci non so quanti bagni e non so quanti cessi. Ha continuato a parlare al telefono con la sua voce gracchiante e a Matilde ha fatto solo un segno con la mano. Matilde ha preso un'aria sostenuta e si è messa a sfogliare un rotocalco. Tuo padre, quando ha riattaccato il telefono, ha detto a Matilde che la trovava molto ingrassata. Poi, subito dopo, ha ripescato fuori una storia di 3 anni fa, quando Matilde gli aveva dato da leggere un manoscritto di un suo romanzo intitolato Polenta e Veleno, e lui l'aveva dimenticato alla stazione di Firenze, in un bar. Era l'unica copia corretta e ribattuta a macchina e stava in una cartella azzurra. E Matilde ha scritto a quel bar, ma la cartella azzurra non è stata mai ritrovata. Così le è passata la voglia di ricorreggere la sua copia e ribatterla, sentendosi scoraggiata e delusa. Aver dimenticato in quel bar la cartella azzurra le era sembrato da parte di tuo padre un atto di disprezzo. In più poi hanno litigato per via di quella vigna che avevano in comune vicino a Spoleto. Lei voleva venderla e tuo padre no. Tuo padre l'altra mattina ha detto che gli dispiaceva di aver perso la cartella azzurra, ma d'altronde era un romanzo insulso questo Polenta e Veleno ed era meglio seppellirlo per sempre. Poi gli è venuta una crisi di dolore, nausea e dolore. È venuto l'architetto, questo che si occupa della torre, ma tuo padre non aveva voglia di guardare le maioliche e dire se gli piacevano di più quelle col fiorellino blu o quelle col fiorellino marrone. L'architetto è uno lungo 2 metri. Mi sembra uno stupido. Aveva un'aria completamente smarrita. Gli abbiamo detto che tornasse più tardi. Così ha cacciato le maioliche nella sua borsa e ha acciuffato il suo impermeabile ed è scappato. Bisogna che mi scrivi subito perché io devo sapere il tuo indirizzo non provvisorio. Penso di mandarti con qualcuno che viene a Londra dei vestiti e dei soldi. Troverò qualcuno. Io intanto ti scriverò ancora a questo indirizzo. Ti darò notizie di tuo padre. Penso che gli dirò che sei dovuto partire in fretta perché in quella scuola di scultura chiudevano le iscrizioni. D'altronde lui ti ritiene una persona di grande vedutezza. Tutto quello che fai gli sembra l'unica cosa giusta che andava fatta. Mi sono arrivati i conigli. 4 sono. Ho chiamato un falegname a farmi le gabbie. Lo sapevo che non potevo aspettarmi da te questo piccolo favore. Capisco che forse non hai colpa, ma le cose girano sempre in modo che io devo rinunciare a ricevere qualsiasi piccolo favore da te. Tua madre. Londra, 3 dicembre 1970. Cara Angelica, sono partito in fretta perché mi hanno telefonato di notte che avevano arrestato Anselmo. Ti ho telefonato dall'aeroporto ma non ti ho trovato. Consegno questa lettera a un ragazzo che te la porterà a mano. Si chiama Ray e io l'ho conosciuto qui. È un ragazzo di Ostenda. È fidato. Dagli da dormire se hai un letto. Dovrà fermarsi a Roma per qualche giorno. Bisogna che tu vada subito a casa mia. Fatti dare la chiave da Osvaldo con una scusa. Digli che devi cercare un libro. Digli quello che vuoi. Mi dimenticavo di dirti che devi portare con te una valigia o una sacca. Dentro la mia stufa c'è un mitra smontato e involtolato in un asciugamano. Partendo me ne sono totalmente dimenticato. Ti sembrerà strano, ma è così. Un mio amico, che si chiama Oliviero, me l'ha portato una sera, qualche settimana fa, perché aveva paura che da lui capitasse la polizia. Gli ho detto di cacciarlo nella stufa. Non l'accendevo mai, quella stufa. Va a legna, non avevo mai legna. In seguito dell'esistenza di questo mitra nascosto nella mia stufa, mi sono dimenticato. Me ne sono ricordato sull'aereo, improvvisamente. Ero in pieno cielo. Mi sono sentita a un tratto coperto di un sudore bollente. Dicono che è freddo il sudore della paura. Non è vero, certe volte è bollente. Mi sono dovuto levare la maglia. Tu allora prendi questo mitra e caccialo nella sacca o valigia che avrai portato con te. Consegnalo a qualcuno di insospettabile, per esempio a quella donna che viene da te a pulire. Oppure puoi restituirlo a quell'Oliviero, si chiama Oliviero Marzullo. Il suo indirizzo non lo so, ma te lo fai dare da qualcuno. Pensandoci bene, però, quel mitra è così vecchio e rugginoso che forse potresti anche buttarlo nel Tevere. Questa incombenza non la do a Osvaldo, la do a te. Anzi, Osvaldo preferirei non ne sapesse niente. Non voglio che mi giudichi un completo imbecille. Però se invece ti viene voglia di raccontarlo a Osvaldo, raccontaglielo. In fondo che lui mi trovi un imbecille mi è indifferente. Naturalmente avevo il passaporto scaduto. Naturalmente Osvaldo mi ha aiutato a rinnovarlo. Tutto questo in poche ore. All'aeroporto c'era anche Gianni. Abbiamo litigato perché secondo Gianni nel nostro gruppo c'è una spia fascista. Forse anzi più di una. Sono sicuro che se lo sogna. Gianni non se ne va da Roma, ma semplicemente ogni sera cambierà stanza. Sono passato un momento da nostro padre prima di partire. Osvaldo mi aspettava in macchina. Nostro padre dormiva profondamente. Mi è sembrato molto vecchio e molto malato. Sto bene. Ho una stanza lunga e stretta con la tappezzeria strappata. Tutto questo alloggio è lungo e stretto. C'è un corridoio e sul corridoio si aprono le stanze da letto. Siamo 5 pensionanti. Il prezzo è 4 sterline la settimana. La padrona è un'ebrea rumena che vende creme per la pelle. Quando puoi, vai a trovare una ragazza che conosco, che sta in via dei Prefetti. Il numero non me lo ricordo, Osvaldo lo sa. Il nome di questa ragazza è Mara Castorelli. Ha avuto un bambino. Io le avevo dato i soldi per abortire, ma non ha abortito. Quel bambino potrebbe anche essere mio figlio, dato che ci sono andato qualche volta a letto. Aveva però molti uomini. Portale un po' di soldi, se puoi. Michele. Angelica lesse questa lettera stando sdraiata in una poltrona nella stanza da pranzo di casa sua. Era una stanza da pranzo minuscola e molto buia. era quasi completamente occupata da un tavolo traboccante di libri e di fogli, sui quali vacillavano un lume e una macchina da scrivere. A quel tavolo lavorava Oreste, suo marito, che adesso stava dormendo in camera da letto perché passava fino alle giornate e dormiva di solito fino alle 4 del pomeriggio. La porta della cucina era aperta ed essa vedeva la sua bambina Flora, la sua amica Sonia e il ragazzo che le aveva portato la lettera. La sua bambina mangiava pane inzuppato nell'ovo maltina. Era una verde lucertola di 5 anni con uno scamiciato blu e calzamaglia rossa. La sua amica Sonia era occhialuta, alta, curva e mite, con una lunga coda di cavallo nera. Lavava i piatti della sera prima. Il ragazzo della lettera mangiava un piatto di penne al pomodoro avanzate da Oreste la sera prima e riscaldate. Era un ragazzo con una giacca a vento celeste scolorita, che non si era voluto levare essendosi infreddolito in viaggio. Aveva una barba castana, corta, rada e leggera. Letta la lettera, Angelica si alzò dalla poltrona e cercò sul tappeto le sue scarpe. Aveva una calzamaglia verde marcio. Aveva anche lei uno scamiciato blu, molto sgualcito e pestato, perché lo portava dal giorno prima, avendo pernottato nella clinica. Il padre era stato operato il giorno prima ed era morto nella notte. Angelica si tirò sui capelli che aveva biondo chiari e lunghi e li ammassò tutti in cima alla testa con alcune forcine. Aveva 23 anni. Era pallida, alta, con il viso un po' troppo lungo, gli occhi verdi come la madre, ma di un'altra forma, lunghi, stretti e obliqui. Tirò giù da un armadio una sacca nera a fiori. Le chiavi dello scantinato non aveva bisogno di chiederle a Osvaldo, perché lui gliele aveva già date, dovendo lei radunare la biancheria sporca e portarla a lavare. Le aveva nella tasca del suo pellicciotto. Si infilò il pellicciotto di nylon nero, comperato usato a Porta Portese. Annunciò in cucina che usciva per fare la spesa. Uscì.